164. Fritto ripieno di mostarda. Questo fritto si può fare in Romagna, ove d'inverno è messa in commercio la mostarda di Savignano, o fatta all'uso di quel paese, che una volta era molto apprezzata, ma non saprei dirvi se sia si mantenuta in credito. Mancandovi questa, potete servirvi di quella fatta in casa, descritta al numero 788. Formate una pasta piuttosto tenera coi seguenti ingredienti, lavorandola molto con le mani sulla spianatoia: farina grammi 220, burro grammi 30, sale un pizzico, latte quanto basta per intriderla. Lasciatela in riposo mezz'ora, poi tiratela col matterello alla grossezza di uno scudo scarso. Tagliatene tanti dischi con lo stampino del numero 162 ed ammesso che ne riuscissero 80, ponete sopra 40 un po' di mostarda e con gli altri 40 copriteli bagnandone prima gli orli con un dito intinto nell'acqua per appiccicarli insieme. Friggeteli e spolverizzateli di zucchero avanti di mandarle in tavola.